rappresentazione in realtà virtuale parte da uno spettacolo che abbiamo composto lo scorso anno insieme a Fiorenza Nenni, che è autrice e direttrice artistica insieme a me di Ateliersi, che è La mappa del cuore di Lea Melandri, che parte da una singolare rubrica che Lea, figura storica del movimento non autoritario del femminismo, ha condotto durante gli anni Ottanta sulla rivista Ragazza In, rispondendo alle inquietudini adolescenziali, aprendo margini di libertà e di dialogo tra le persone che gli scrivevano, soprattutto ragazze e ragazzi tra i 13 e i 18 anni. Il spettacolo ha debuttato l'anno scorso a Milano, Sant'Arcangelo. Quando i teatri sono stati chiusi, abbiamo avuto il desiderio di perseguire un'intuizione che è sempre stata con noi durante le prove, cioè che lo spettacolo si potesse rivolgere ad uno spettatore che fosse con noi sul palco. Abbiamo sempre pensato che la posizione migliore per lo spettatore sarebbe stata al centro di questo semicerchio che creiamo sul palco, con Francesca Pizzo alias Cristallo che canta, me e Fiorenza che leggiamo lettere ai tavoli stracolmi di queste lettere che Lea Melandri ci ha affidato e dei numeri della rivista Ragazza In, e essere al centro di questo semicerchio ci sembrava la posizione migliore. E quindi abbiamo dato corso a questa intuizione, abbiamo approfondito questa intuizione girando a novembre, dicembre, quando il teatro era chiuso, girando una serie di video a 360 gradi dello spettacolo nella scatola nera del nostro teatro, dell'Atelier C, e costruendo una visione che si può fruire attraverso i visori di realtà virtuale. Quindi lo spettatore andrà in uno dei luoghi che in questo primo ciclo di presentazioni ospiteranno la possibilità di vedere lo spettacolo, verrà accolto da una performer che lo guiderà all'interno di questo ambiente e quindi sarà immerso per un'ora calzando il visore all'interno dello spettacolo. La visione in realtà virtuale prevede appunto che a 360 gradi intorno allo spettatore lo spettacolo accade, il suono spazia in tutte le direzioni e le visioni contemporanee si sviluppano in tutte le direzioni, riportando anche quella dinamica meravigliosa del teatro che permette di essere liberi con lo sguardo. Quindi quando un attore parlerà, la cantante interpreterà le nostre rielaborazioni fatte insieme a Vincenzo Scorsia e Mauro Somavilla delle canzoni di Duran Duran, lo spettatore potrà contemporaneamente guardare da un'altra parte un video dove scorreranno le immagini di Ragazza In, seguire l'altro attore in che maniera reagisce, quindi spaziare con la stessa libertà di sguardo che uno spettatore ha a teatro, con in più una dimensione fortemente intima, fortemente immersiva, perché lo spettacolo sarà poi fruito one to one, cioè da una persona per volta attraverso i visori. Come dicevi appunto tu, Andrea, ci saranno diversi luoghi in cui lo spettacolo sarà visibile. Ne possiamo citare qualcuno? Lo spettacolo parte l'11 maggio al Dance Lab, alla Manifattura delle Arti, dopo una tavola rotonda organizzata in collaborazione con il Dance che ci porterà ad un approfondimento sulla cultura di massa degli anni Ottanta e sulla trasposizione dello spettacolo dal vivo in realtà virtuale. Quindi approfondiremo con Roberta Paltrinieri, Enrico Pitozzi i diversi aspetti di questa operazione. E poi dal pomeriggio, dall'11 al 14 maggio, si potrà fruire nella navata centrale del Dance Lab. Poi arriveremo dal 18 al 23 alle le collezioni comunali d'arte di Bologna, luogo al quale siamo particolarmente affezionati perché l'anno scorso partì lì un laboratorio con i ragazzi degli Aldini Valoriani, perché parallelamente su questo tema delle inquietudini adolescenziali abbiamo lavorato anche attraverso dei percorsi di formazione nelle scuole, mettendo in relazione i ragazzi con le lettere scritte da Lea Melandri e i ritratti che sono nelle collezioni comunali, quindi ci fa molto piacere essere ospiti delle collezioni comunali. Poi saremo in Sala Borsa Ragazzi dal 24 al 28 maggio, poi saremo alla Biblioteca del Cassero dall'1 al 4, per poi arrivare al Mambo dall'8 al 13 giugno e chiudere dal 14 al 18 questo primo tour cittadino, a cui poi seguirà un tour nazionale alle Serre dei Giardini Margherita, dove in collaborazione con i ragazzi delle Serre presenteremo anche Vogliamo anche le Rose, il documentario del Navalli, e un concerto che Francesca Pizzo, Cristallo e Vincenzo Scorsia realizzeranno a partire dalle musiche dello spettacolo. Sono una serie. Oltre a questo tour dello spettacolo in realtà virtuale ci sono appunto una serie di eventi collaterali, la tavola rotonda, il concerto, il film. Nei musei proporremo dei percorsi di visita all'interno delle collezioni comunali, all'interno del Mambo, collegate alle emozioni che ci suscitano le lettere sulle quali abbiamo lavorato, mentre nelle biblioteche abbiamo chiesto alle compagne dell'edizione Enciclopedia delle Donne, a Sara De Simone e alle protagoniste del Patto della Lettura di Bologna, di proporci dei percorsi di lettura. Quindi affiancheremo la nostra presenza nei musei dei percorsi di visita e nelle biblioteche dei percorsi di lettura, e poi dal 9, il 10 e l'11 maggio sarà possibile vedere anche lo spettacolo dal vivo invece in Arena Orfeonica, quindi nello spazio esterno tra noi, tra l'Atelier C, l'Arena Orfeonica e la BA, dove sarà possibile realizzarlo all'esterno, che in questo momento ci è più semplice.